and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Dalla giungla, dove siamo? Che cos'è questa cosa? Non il so. Benjo nella giungla. Vabbè, Benjo, saluto la cappa, un saluto da Drago. A me sembrava che fosse una specie di percussione africana. È un Benjo, un Benjolele, vedi? Un Benjolele. Un saluto da cappa, un saluto da Drago e quindi cominciamo questa puntata, ci abbiamo tante cose da dire. Con cosa ci spacchi i timpani oggi? Ma che domanda è con cosa ci spacchi i timpani oggi? Sì, Drago, oggi? Perché adesso io ogni tanto risento le puntate di Chiedo Asilo su internet, perché su internet c'è tutto, si trovano anche le puntate. E noto che spesso tu cominci il programma, sì, attacchi a parlare e boh, non se ne esce più. Come dopo 10 minuti siamo lì che bla bla bla, tu ancora che parli, e quello che viene voglia di fare da ascoltatore è spegnere la radio. No, è prendere una mazza ferrata e di dartela qua sulla testa in mezzo, fortissimo. Addirittura una mazza ferrata. Beh, la nobile e prestigiosa tradizione di... La mazza ferrata! Vabbè, allora comincio a parlare, quando non ne puoi più mi fermi, no, ma non con la mazza ferrata. Le ultime notizie in arrivo dalle università sdoganano la riga di sporco sul colletto della camicia. No, vabbè, ma Drago, sdoganano capelli unti e pieni di forfora e sdoganano ascelle pericolose. Tu sei contento di questo? Io te l'ho detto, sono i nuovi studi universitari che indicano chiaramente che più un bambino è sporco e meno si ammala. Ma come? Scusa, ma i germi, tutte quelle cose lì? I microbi? Germi e microbi. Sono stati l'incubo della mia infanzia, anche quella di Howard Hughes, certo. Cioè eravamo in ottima compagnia, Howard Hughes. Howard Hughes, noi abbiamo avuto un'infanzia, insomma, cosa? Tanti anni fa, quindi voglio dire, si parla di 40 anni fa, le cose sono cambiate nel frattempo e soprattutto le università hanno continuato a finanziare degli studi utilissimi, tipo questo della IFIACI. Della? Ma K, non conosci un acronimo che sia uno, la IFIACI, la Federazione delle Società Italiane di Immunologia, Allergologia e Immunologia Clinica. Vedi, ci sono due immunologie. Allora è un acronimo sbagliato. Cosa? Scusa, IFIACI non può essere Federazione delle Società Italiane di Immunologia, Allergologia. Perché? Perché IFIACI comincia con la I, no? Federazione con la F, quindi. Hai ragione. È per quello che non la conoscevo, no? Ah, beh, certo, se no. Vabbè, beh, comunque sarà... guardavo su internet, c'è tutto su internet. IFIACI lo trovavi, infatti lo trovi, però sarà l'acronimo della dicitura inglese, Italian Federation, e poi non lo so, immunologi, eccetera. Non lo sai. Comunque sia, l'IFIACI ha detto chiaramente: lavarsi troppo indebolisce il sistema immunitario. Vabbè, non è la prima volta che si sente. In effetti, sono cose che si è sempre detto, sono quelle cose di buon senso, appunto, che sanno tutti. Quindi. Però adesso c'è lo studio dell'IFIACI. Sei sempre lì a dire lo sapevo già, però finché non c'è uno studio, vabbè. Sì, però meglio che i consigli degli IFIACI non venissero seguiti troppo alla lettera da chi mi sta vicino, perché vento è cambiato, però il vento è anche girato dalla mia parte, tu sei sotto vento, quindi... Non c'entro niente, io stamattina ho fatto la doccia una volta ogni tanto. E quelli degli IFIACI? Loro mica l'ho detto. I leader della sinistra, sempre incazzati. Scusate... Ma ogni tanto parlo anche in inglese e faccio sfoggio della mia conoscenza delle lingue. Io ho capito perché sono sempre incazzato. Perché dovendo venire in Parlamento si devono fare la barba. Allora sono costretti ad andare in bagno. Non è che si lavino molto, ma comunque per la barba devono andare in bagno. In bagno cosa fanno? Accendono la luce... Si vedono nello specchio, si sono già rovinati la giornata! E ora, bambini, ricreazione! La ricreazione estiva K per me è una tortura, fa troppo caldo e poi svengo, faccio le sei figure. Delicatino, Drago, c'è il costatino, sai, le spalline. Dovevi fare la scuola svizzera, allora saresti venuto su bello. Certo, sì, la scuola svizzera, voi avete un allenamento alpino, cosa fate? Certo. Lì, cioè, dire. La scuola svizzera è anche scuola di vita, ti insegna a non lamentarti, mai. Allora io non vado bene perché la lamentela per me è una specie di stile di vita. No, da sempre, tu ti lamenti quindi... e causi lamentele che è peggio. No, ma non è vero, ma dai. Sì, sì. Guarda un altro, eccone un altro che in quanto alagne e piagnistei non si fa mancare niente. Salve amici. Bambino Ambaradan. Come? Salve amici, cos'è? Salve amici, come state? Ecco, cos'ha adesso? Tutto ok? No, bambino Alberto, tu no, piuttosto tutto ok, perché insomma... No, molto bene, grazie. Ma voi invece, vi vedo un po' agitati, eh? Ma cosa no, è successo? Ma se noi sei normale, sei tu che sei diverso dal solito, cos'è che hai? Ma in che senso? In quale senso diverso nel senso, dal solito? In quale allora, senso? Intanto stai calmo, non hai neanche reagito a bambino Baradan? Scusa, non so, arrivi e dici salve amici, sorridi. Salve amici, sì. Come vabbè, fossi nella TV dei ragazzi di 30 anni fa però. Scusate, con tutto rispetto, non capisco il problema. Cioè, davvero, ve lo dico sinceramente. Cioè, perché voi delle volte siete un po' strani, dai. Vabbè, dai, allora possiamo continuare con l'intervista o dobbiamo stare qui a dirci queste cose intervista, davvero interessanti, salve amici, eccetera. Ma tu credi, dai, ancora che sia un'intervista. Sento che sono interviste. Allora, dai, cerchiamo di fare in fretta. Allora, bambino Alberto, si è vociferato in questi giorni? No, ma si è vociferato cosa? Sì, no, ma niente, lascia stare. È Drago che ha il vocabolario dei suoi anni, no? Quando avevano appena inventato la penna biro, si diceva vociferato. Bambino Alberto, un po' di immaginazione anche tu, capo. Allora, si è sentito dire in giro, vociferato, che forse qui all'asilo verrà prima o poi il bambino Balotelli, che si sta impegnando un sacco con i bambini disabili, fa beneficenza, va nelle scuole, negli asili, e quindi si diceva che forse prima o poi arriverà qui. Qui i bambini disabili ce ne sono solo un paio, Non credo che Balotelli venga a visitare noi. No, eh. E che poi, anche perché poi rischia che non lo fanno più uscire, No, ma come? Nel senso che le suore lo vedono, sì, e capiscono che ha bisogno di rimanere qui più a lungo. Sì, nella classe dei grandi però. E beh, dipende, no? No, ma come dipende? Un gigante, Balotelli. Sì. Ho capito, ma il fisico non c'entra. Ah no? No, dipende dalla maturità raggiunta, no? Ah, vedi come è tutto è maturo, cioè, anche lui. Se sei ancora acerbo, si fanno restare 2 anni nella stessa classe. Ah, capito. Così poi i tuoi compagni hanno un anno in meno e ti trovi meglio, no? Sì. A Balotelli potrebbe succedere che ha la maturità di un bambino di 4 anni, no? Sì. E allora devi stare con i medi. Con i medi? Sì, ma a 20 anni, scusa, coi medi, non è che si trova tanto bene. E anche coi grandi, non so, a 20 anni. Ma d'altra parte, Drago, si sa, l'età è quella che uno si sente dentro, sì, no? Tipo, tu, Drago, cosa ti senti dentro? Vabbè, meno di quelli, meno dell'età che ho, però... Una gastrite incombente. Non è che arrivo fino ai 4-5 anni, insomma, me ne sento un po' meno, però... Ecco, anche Balotelli se ne sente meno. Capito, ma dentro, tanti no? meno, sì. Ma lui dentro è un bambino di 4 anni, quindi è in difficoltà a vivere da solo lì, dov'è che vive? A Manchester. A Manchester. Sì, È lontano da tutti gli amici, dalla famiglia, da Gardaland, lui va a Gardaland. Certo. Dovrebbe trascorrere qualche mese negli istituti dove va a fare beneficenza. Con i bambini disagiati. Quelli lì, sì. Ho capito. Qualche mese lì, qualche mese là. E magari la volta buona che diventa un ometto, insomma, che si fa Può darsi, più saggio. Bambino Alberto, a te piace Balotelli come personaggio? Beh, diciamo, come tifoso del Milan, in teoria dovrei dire di no. Ecco. Perché lui comunque è nato nell'Inter, no? Sì. È nato a Brescia, no? Ah, sì, è nato calcisticamente nell'Inter. Ah, no? Certo. Però si sa anche che Super Mario è tifoso del Milan dentro, no? Mm. E quindi mi è simpatico. E poi mi è simpatico perché è uno di noi. È un bambino, no? Non sa controllarsi. Sì. Però invece tu ti controlli benissimo oggi, eh? Bambino Alberto, sembri maturato tutto d'un colpo. Cos'è successo? A voi sembra? Mi sento diverso. Insomma, sì, tutto lì, precisino. Salve amici. Sì. Magari, cioè, saranno le goccine nuove che ci dà Suor Dentone. Ah. E perché a me, stranamente, rispetto alle altre volte, stavolta le goccine di Suor Dentone... E mi piacciono di brutto. Ma allora c'è la chimica dietro questo inedito bambino Alberto che dice: salve amici, come state? Appunto. Bene. Non lo so, io dico così, ma non so se è vero. Però di solito le goccine che ci dava all'inizio Suor Dentone mi rimbambivano. Sì. E stavo zitto tutto il giorno a fissare il muro. Ah, ecco. Un ottimo effetto era infatti. Ma io credevo che fosse giusto così, che fosse normale prendere le goccine, un farmaco, e poi stare fermo davanti al muro. Poi com'è che hai capito che invece non era tanto normale? Non lo so, cioè, mi è venuto da dentro. Ah, proprio un'illuminazione. Così hai smesso di prenderle? Sì, ho cominciato a passarle a Gildo. È vero, Gildo? Infatti Gildo è diventato... è un po' così, no? Sì. Sta davanti al muro. Infatti, però invece adesso altre goccine, quindi cos'è che è successo? Ha cambiato marca, hai visto che... Sì, ma c'è stata una comunicazione. Cioè, proprio ufficialmente Suor Dentone ci ha detto: bambini, c'è stato un errore. Sì. Le goccine che vi davamo prima sono state messe fuori legge perché provocano danni al cervello irreparabili. Ah, così. E voi le avete prese per un tempo limite. Ecco. Cioè, voi avete superato il limite. Ah, adesso così. Superato. Però adesso smettete e quindi poi si vedrà. Sarete già ai superiori quando gli effetti collaterali. Se poi tra 6 mesi torna qui Suor Dentone e ci dice: allora, le goccine che vi ho dato stavolta che sono come quelle di una volta prima, che c'è, che non vanno bene, ha preso le goccine, che sono peggio di quelle di prima, e cosa facciamo? E perché poi dopo metti che quelle di prima erano danni irreparabili. E beh, io vado adesso. Gildo, hai preso le tue goccine? Bellissimo! Vai davanti al muro allora. In the dark, where all the fevers grow, under the water, by your radio. Stinkfoot, Stinkfoot, darling. Stinkfoot, your stinkfoot put a hurt on my nose. Stinkfoot, yeah, you stinkfoot, darling. Stinkfoot, yeah, you stinkfoot, darling. But Ifiachi told me so, and I cannot disobey Ifiachi. So send your mail at chiedosilo@radio24.it.